Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla nuova Mishnah sulla pagina 16a, Tet Zain Amud Aleph, dove è indicato in lettere più grandi in grassetto Matnitin, la nostra Mishnah. Ognuno è invitato a trovare il posto. Tet Zain, non è Tet Vav, Alberto, Tet Zain. Non è questo. Gira due volte. Gimel. Te Zain. Ti manca? Eccolo. Questa è Te Zain. Sì. Una decina, quindicina di righe dall'alto c'è l'indicazione Matnitin, la nostra Mishnah. Ha un manin, sì. Eccolo. Ok, di cosa si occupa la Mishnah? Prima sentiamo un attimino. La nostra Mishnah si occupa di quanto è necessario, di che livello di concentrazione è necessaria per poter uscire l'obbligo della Mishnah, scusate, della lettura dello Shema, di cui appunto stiamo parlando in questo capitolo. Cosa vuol dire quanta concentrazione serve? La Mishnah farà un esempio, un caso, dal quale noi potremmo capire, da questo tipo di casistica, qual è il minimo di concentrazione necessaria per poter uscire la tzetie dei chovà, cioè per poter uscire l'obbligo della lettura dello Shema. Vediamo qual è il caso preso come esempio dalla Mishnah. La Mishnah dice così: ha umanin, gli operai, quindi un caso degli operai che si occupano appunto del loro lavoro, e si trovano in una situazione in cui sarebbe difficile concentrarsi. Perché in che situazione si trovano? La Mishnah dice: Corin leggono lo Shema anche se si trovano Berosh Ha'ilan, anche se si trovano a lavorare in cima a un albero, oppure Uberosh Hanidbach, oppure su una fila di pietra che stanno costruendo una costruzione. Nidbach è una fila di pietra, di mattoni che loro stanno costruendo, quindi si trovano, diciamo, su questo soppalco, si trovano in alto, o su un albero, o per un altro tipo di costruzione. Un muro, sì. E arriva il momento della lettura dello Shema, la Mishnah dice: leggono, Corin, leggono, e ovviamente escono l'obbligo della lettura dello Shema, anche in quella situazione in cui in realtà non è facile concentrarsi bene. Quindi è come se dicessimo che la concentrazione non deve essere il massimo, può essere anche un minimo. Anche con una minima concentrazione si esce l'obbligo della mitzvah dello Shema. E la Mishnah subito contrappone questa con quella della Amidah. Dice: questo è sufficiente per lo Shema, ma non sarebbe sufficiente se si trattasse della Amidah. Per la Tamidà non basta questa concentrazione. La Mishnah, Bidyuk, esattamente, la Mishnah dice: ma sheinan rasha'in la asot ken batfilah. Einan rasha'in, non hanno il permesso, la asot ken, di fare così per la tefilah. Vi ricordate cosa vuol dire tefilah nella Mishnah? Amidà, benissimo. Per la Amidà questo non è sufficiente. Rashi spiega: visto che la tefilah per definizione è qualcosa che viene dal cuore, deve essere sentita, deve essere compresa, deve essere pensata e sentita, e una persona che sta in cima all'albero o in cima al soppalco o sul muro che sta costruendo ha paura di cadere se si concentra troppo su un'altra cosa. Sarebbe troppo attento anche a non cadere e non perdere, avrebbe la concentrazione. Esattamente, sarebbe troppo attento a non cadere e perderebbe la concentrazione nella tefilah. Questo spiega Rashi. E quindi, di conseguenza, cosa capiamo? Che la concentrazione richiesta per lo Shema è minore rispetto a quello della tefilah. Nella Gemara approfondiremo come si definisce meglio questa differenza di livello di concentrazione che è necessario. Ok? Però prima di arrivare alla Gemara, la Mishnah parla di un ulteriore caso. Grazie mille, Piero. La Mishnah parla di un'ulteriore situazione in cui ci potrebbe essere troppa poca concentrazione nello Shema. Vediamo di cosa si tratta. Todaraba. Dice la Mishnah, Chatan vuol dire uno sposo. Per uno sposo si intende qualcuno che quella sera si sposa. Si è sposato quella stessa sera. Per ciò che riguarda il suo obbligo di leggere lo Shema quella stessa sera in cui si sposa, la Mishnah dice, Patur mikriat Shema è esente dall'obbligo di leggere lo Shema Laila Harishonah, quella prima sera in cui si sposa, Ve'ad Mozae Shabbat, e fino, anche possibilmente fino al sabato sera, Im lo assama a sé, se ancora non ha consumato il suo matrimonio. Il rapporto. Cosa vuol dire? Cosa c'entra sabato sera? Allora, l'uso all'epoca e anche in altre epoche, se voi vedete le ketubot antiche, e neanche così tanto antiche, anche a Roma, normalmente l'uso era che ci si sposava il mercoledì sera o mercoledì pomeriggio, comunque di mercoledì. Quindi quando noi diciamo fino a sabato sera, cosa vuol dire? Tre giorni, giovedì, venerdì, sabato sera. Di cosa è il problema qua? Il Chatan, colui che si sposa, è preoccupato della consumazione del matrimonio. Ha la testa da un'altra parte. Ha la testa da un'altra parte. Allora la Mishnah dice, esente patur dalla mitzvah dello Shema. Se ancora non è riuscito a consumare il rapporto, allora ancora fino a sabato sera, vuol dire per tre giorni, non deve essere preoccupato, diciamo così, perché visto che non potrà concentrarsi bene sullo Shema, allora l'Halakha dice è esente da questa mitzvah in quei momenti. Per quei tre giorni. Ora, questa è l'Halakha che la Mishnah dice, e la Mishnah aggiunge e dice così. Umase accadde un aneddoto con Rabban Gamliel. È successo che Rabban Gamliel, uno dei grandi maestri e Nasi, capo del Sinedrio, Shenasa Isha, si sposò. Vekara e lesse. Cosa lesse? Lo Shema. Come vai a Nasi? Nasi Nasui. No, cioè, tu nel liceo ben 18 aveva. לא, זה רבי אלעזר בן עזריה. אה, כן. כן, כנראה לא נישואים ראשונים. וקרא לילה ראשונה, אלוי לסה לא שמע, אנקה לפרימה סרה אין כויסיס פוזו. אמרו לו תלמידיו, דיסרו אלוי, איסווי אלייבי, לימדתנו רבינו, לי מאסטרו צ'יה אינסניאטו, Shechatan patur mikriat Shema, che uno sposo è esente dalla lettura dello Shema. Ascoltate bene come loro gli pongono la domanda. Non gli dicono, Rav, lei sta sbagliando. Non gli dicono, com'è che lei si è comportato in questa maniera? Non gli fanno domande, fanno un'affermazione. Lei ci ha insegnato... rispetto, no? Il modo rispettoso in cui un allievo parla a un maestro. Che il maestro gli insegnò una cosa, e poi sembra dal comportamento del maestro stesso che si comporta in un'altra maniera, l'allievo non protesta, non domanda, cosa dice? Lei, maestro, ci ha insegnato così e così, punto. Se il maestro vuole spiegare, spiega. Molto interessante. Una grande lezione. Lei ci ha insegnato, quindi è sempre nel rispetto di quello che è stato insegnato dallo stesso maestro. Lei ci ha insegnato, Rabbeinu, un nostro maestro, che il Chatan, che lo sposo Patur, è esente, mikriat Shema, dalla lettura dello Shema. Cosa disse Rabban Gamliel a questa domanda, a questa contraddizione tra ciò che insegnò e ciò che fece? Amar Lahem, disse loro: nonostante quello che vi ho insegnato, che questa sarebbe l'alaha, e inisho me alachem, non sono pronto a sentirvi, cioè ad ascoltare quello che state proponendo, che io non devo leggere lo Shema, levatel heimeni, per far sì che si annulli da me, o che io annullo in maniera attiva da me, heimeni, da sopra di me, malchut shamaim, il regno celeste, afilu sha'a echad, neanche per un momento. Cosa vuol dire? Vuol dire, leggere lo Shema è un modo di accettare il regno celeste. Le Kabbalat, abbiamo studiato di questo, Kabbalat Ol, l'accettazione del gioco, Malchut Shamayim, e a questo bisogna tenere anche in mente nel momento in cui si legge lo Shema. Allora, Rabban Gamliel sta dicendo, a me il fatto che mi sposo non mi distoglie il pensiero da questa cosa del sentire su di me il regno celeste, e di conseguenza riesco a leggere lo Shema con la dovuta intenzione anche quando in teoria avrei altre cose per la testa, e di conseguenza a me non per forza si applica questa cosa. Ora, in realtà vedremo forse più avanti che Rabban Gamliel non sta discutendo con quanto abbiamo detto nell'Alaha che lo sposo è esente. Rabban Gamliel sta dicendo che se uno sposo riesce a concentrarsi, allora certo è bene che legga lo Shema. Tra l'altro aggiungo un'altra parentesi, che poi i Tosafot lo portano, questa cosa, che oggigiorno, che forse non siamo in grado di dire che ogni volta che leggiamo lo Shema lo facciamo con il massimo della concentrazione, ok? E comunque leggiamo lo Shema, almeno per cercare di rientrare nella mitzvah, allora anche lo sposo oggi non è più esente dallo Shema. Perché visto che anche in altri giorni non sempre concentriamo fino alla fine, allora è inutile evitare quando non siamo sicuri sulla concentrazione. È meglio sempre leggere. Quindi l'alaha oggi riportata è che comunque anche lo sposo è obbligato. Quello che sto dicendo adesso è l'alaha, che anche uno sposo legge lo Shema. Non esiste oggi che uno sposo la premessa non legge l'alaha. Delle considerazioni che si facevano circa la possibilità che di essere esenti in quei tre giorni. Qual era la premessa? Cioè, era, non era la l'alaha, era, no, no, no. Era quello che valeva... No, no, scusa, no, scusa se ti interrompo. Anzi. La Mishnah sta dicendo che è halakha, che lo sposo è esente. La l'alaha però si sviluppa sempre. Allora non sto citando la Mishnah, sto citando la l'alaha. L'insegnamento dei maestri di halakha successivi alla Mishnah, che arrivano alla conclusione, sì, che... Visto le condizioni, che comunque molti hanno difficoltà o comunque in pratica non si concentrano fino al massimo, anche negli altri giorni che non si sposano, tutti i giorni dell'anno, allora non ha più senso dire quindi questo giorno ti sposi, non dire lo Shema, perché non è che domani, credo purtroppo è per una nostra mancanza che in qualche maniera abbiamo... guadagnato qualcosa, no? Tra virgolette. Credevo fosse un momento di quelli che certe volte si è spiegato, è tutta la discussione che poi porterà alla Laka. Invece già quella era un momento definito. Una Laka definita, comunque, poi sviluppata da questa, non la capisco questa aggiornata. Sì. Allora, in generale... No, la capisci nel senso... Cos'è la domanda, William? La Laka dice devi fare così. Poi viene sempre lo stesso discorso. Viene uno, dice non lo fa, io non lo faccio. Poi dice di là non lo puoi fare oggi. No, ma è l'aggiornamento. Sono legge della Halakha che devi non è un aggiornamento. No, allora spiego. La Halakha non la puoi toccare. La Halakha non la puoi toccare. Devi capire qual è la Halakha e i maestri e soprattutto i poskim, i decisori di Halakha, capiscono le motivazioni delle Halakhot specifiche per vedere dove si applicano e dove non si applicano. La Halakha non è un muro. L'alaha è un corpo dinamico, vivente, che ha delle basi. In base a queste, certo, in base a queste basi, e in base di conseguenza anche alle situazioni trattate dall'alaha, l'alaha specifica può cambiare. Qui in effetti l'alaha è quella, l'alaha è che bisogna concentrarsi sullo Shema. Allora se uno non riesce a concentrarsi... Si parla di concentrazione. Fammi finire un attimo. Sì. Ho detto all'inizio, questa mitzvah parla di concentrazione. Qual è il minimo necessario di concentrazione sullo Shema? Allora, Se una persona riesce a concentrarsi bene sullo Shema in situazioni normali, allora in situazioni di eccezione è esente dalla mitzvah perché lì non riesce a concentrarsi bene. Ma se una persona non riesce mai a concentrarsi al massimo richiesto, cosa fa? Non legge più lo Shema nella sua vita? Allora l'Alaha dice, in quel caso legge sempre lo Shema, anche quando ha altre cose per la testa, perché anche quando non ha queste altre cose, ha altre cose ancora. Che vuol dire concentrarsi al massimo quando leggi lo Shema? Io capisco. Ma il grado di concentrazione, sì, che vuol dire? In che grado puoi sapere se ti concentri nella lettura dello Shema al massimo? Oh, adesso hai fatto un'ottima domanda. Come si definisce questo requisito di concentrazione, massimo, minimo, come si definisce? Allora, un po' la Mishnah ha detto che non è una cosa così difficile, perché ha detto lo possono fare anche quando stanno in cima all'albero, che cosa che l'Amidah non possono, solo lo Shema. Quindi già possiamo forse capire da questo che non è richiesto chissà che cosa. Però bisogna approfondire meglio, infatti adesso vedremo nella Gemara che si farà un approfondimento su questo proprio per definire meglio come si definisce la concentrazione. Ma anticipo, prima che entriamo nella Gemara stessa, ti anticipo che in realtà non è ben definita questa cosa. Ed è proprio per questo che si arriva alla conclusione che noi leggiamo sempre lo Shema, anche quando si sposa, anche quando c'ha un'altra cosa per la testa, comunque legge sempre lo Shema. Perché? Perché alla fine non è difficile. Dvarim Shebalev. Dvarim Shebalev vuol dire questioni di pensiero. Ognuno c'è la sua capacità. Oh, il pensiero è relativo ed è soggettivo. Quindi è difficile, molto difficile definire, dare delle definizioni chiare. Di conseguenza possiamo definire un po' la cornice nella quale questo avviene, se avviene se stai seduto su una sedia o se stai seduto sopra un albero dove sei un po' più precario, allora lì possiamo dare delle definizioni circa l'aspetto esterno di quello che avviene. Riguardo l'aspetto interno che avviene, abbiamo studiato già che c'è il minimo, il minimo è di Le chaven, di avere in mente, tenere in mente il significato del primo versetto dello Shema. E se non ha tenuto in mente lì, non si rende conto di quello che sta dicendo, deve ripeterlo. Invece per il resto dello Shema, anche se non dovrebbe chiaramente tenere in mente e capire quello che sta dicendo e seguire con l'intenzione, ma se non lo avesse fatto non deve tornare indietro. Vuol dire che il minimo requisito è il primo versetto. Come abbiamo visto. Come abbiamo infatti già studiato. Questo Rave qua che insegna ai suoi allievi. Rabban Gamliel, questo Rave qua. Questo Rabban Gamliel. Beh, scusa, con la cavolta. Ma lui insegna ai suoi allievi di concentrarsi al massimo e che lui, e quando non si sposa, è esente e poi lui fa il contrario. E i suoi allievi che conclusione arrivano questi gli allievi? Lui ha risposto e la spiegazione, allora spiego, bravo. Prima di rispondere hai già insegnato allora, qualcosa, poi William, smentisce. Ecco, guarda il Tosfot, leggiamo il Tosfot. Scusate. Dov'è? Maase. Alla sinistra abbiamo il commento del Tosfot e il secondo paragrafo intitolato Maase. Vediamo cosa dice. Maase Rabban Gamliel shenasa isha, citiamo la Mishnah. È accaduto con Rabban Gamliel che ha sposato una donna, vekara kriyat shema balaila harishona, e ha letto lo Shema nella prima sera del matrimonio. Tosfot adesso dice: lav maase listor hu. Questo non è un maase listor. Cosa vuol dire maase listor? Maase listor vuol dire una storia che contraddice quanto insegnato prima. Stira. Quello che dicevo. Dice, non è una... questa storia, a volte la Mishnah o la Gemara racconta una storia per contraddire quello che abbiamo detto. Cioè, noi facciamo un'affermazione e poi diciamo, scusa, ma c'è un aneddoto che, dal quale si evince che in realtà non è come prima affermato. Qui dice Tosfot, questa storia in questo caso non è per contraddire quanto affermato prima, bensì è per chiarire qualcosa. Abbiamo fatto un'affermazione, ma con questo aneddoto vogliamo chiarire il senso dell'affermazione. De Kamash Malan, cos'è che ci vuole insegnare? ci sta insegnando, im gadol hu, se la persona è grande, grande nel senso morale, che riesce a concentrarsi, a controllare i propri pensieri, uboteach beatzmo, ed è sicuro di sé, sheyuchal lehitkaven, che avrà la possibilità di concentrarsi, di tenere l'intenzione sullo Shema. Allora, se vehu ra'ui li tolet Hashem, se è uno che è degno di rientrare in quella definizione, cioè quella che abbiamo detto che riesce a tenere l'intenzione e avere questo titolo, tra virgolette, li tolet Hashem, un modo di dire, come dire, è davvero degno di quella posizione, posizione sì, nel senso morale, nel senso... Sì. Allora, hareshut beyado, allora gli è permesso. In altre parole, la Mishnah sta chiarendo quando dice questa storia, sta dicendo tu saresti esente, ma se ce la fai, puoi farlo. In altre parole, non è un divieto, è vietato per te l'oggi lo Shema. No, è che non stiamo mettendo su di te l'obbligo, ma se tu volessi, puoi accettare da solo quell'obbligo. Comunque, chiara la differenza? Sì. Ok. Questa, chiamiamola solo per lo schematico, questa seconda, insomma, la Rakha... chiamiamola attuale, non voglio dire aggiornata, sì, la halakha attuale, insomma, sì, ecco, sì, sta più in piedi concettualmente, perché in effetti mantiene da più rilievo, mantiene più fermo il principio di dover recitare lo Shema quando è il momento, piuttosto che rischiare di metterlo in secondo piano a seconda del momento in cui uno potrebbe non essere come era, della situazione si può creare. Uh-huh. Almeno la persona sa che è un momento importante e quindi non deve perderlo. Quindi molto bene. Concettualmente anche più sostieni di più la necessità di... Benissimo. Però qui abbiamo studiato nel Tosfot, e credo che la prima volta che nella lezione abbiamo studiato insieme il testo del Tosfot, del Tosfot, molto importante. Abbiamo spiegato come si svolge questa Mishnah, non che c'è un'affermazione e poi la storia vuole contraddirla, ma la storia chiarisce e dice, la Mishnah ti sta dicendo che sei esente, non che sei vietato, che sei proibito dal dirlo. Se puoi, allora puoi dire. Malazit Alomar. Il mio Mishnah può... Ken. E bau li sholo to, c'è la vraite chun elem, omer lehem, lo shomea lachem, ken. Tov, ze... E bau li sholo to shela. אז מה אתה אומר? זה לא דרך נורמלית לענות? לא, יש פה כאילו הם באו להגיד לו, באו אליו בטענה. הם רצו להבין. למתנו רבינו. לא רבו לבנו קפירה, רבן גבריאל. אני לא שומע לכם. אבל את ההלכה הוא נתן להם. אוקיי, allora voi state guardando le parole che lui dice, io non vi ascolto, רבן גבריאל risponde agli allievi, non vi ascolto per togliere... Però non dice non vi ascolto a voi. Non vi ascolto a voi, levatel malchut shamayim. Non che non vi ascolto quello che volete dire. Non voglio, diciamo così, dare retta alle vostre parole, perché questo potrebbe dire che io non rispetto il giogo del cielo che ho su di me. È più un modo di dire che un modo di dire non voglio dare retta a voi. È più un modo di esprimersi rivolto al concetto del Malchut Shamayim più che al non voler ascoltare loro. Però credo che, come abbiamo spiegato la Mishnah anche con guardando il commento del Tosafot, si capisce meglio cosa vuol dire. Sì, lui insegna loro che lo sposo è esente, e lui con il suo esempio insegna anche che se lo sposo può farlo, allora è bene che lo faccia. Quindi a volte un allievo deve poter, questa è anche una lezione importante, un allievo deve poter a volte distinguere e approfondire da solo le parole che lui sente dal maestro. Se le prende alla lettera, a volte può sbagliare. Deve anche vedere il comportamento dei maestri per capire come si applicano le parole. A volte le parole non si applicano in una maniera così, diciamo, rigida o netta o letterale. Letterale, molto spesso si studia qualcosa nel letterale, sembra una maniera, e poi nel comportamento sembra un'altra. E questo fa parte dell'insegnamento, per capire come esattamente va applicata la parola. Allora, forse è per questo che Rabbi Gabriel nella lezione non ha anticipato che poi potrebbe esserci, invece se uno è in una certa lezione, può darsi. Vedere se i ragazzi stavano, poi mettevano del proprio, insomma. Può darsi, assolutamente, può scusa, darsi. No, tanto valeva che lo dicesse lì, guardate, questo è, però... Sì, sì, sì, chiaro, chiaro. La parola shomea, che sì. C'è scritto qua. Shomea, non vi ascolto, sì. No, e nel senso non vi ascolto... No, non seguo quello non che... non vi capisco, no. Perché shomea vuol dire anche capire. Lo so, no, vuol dire non vi do retta in questo senso qua. Okay. Perché se dovessi darvi retta, allora toglierei da me il gioco del cielo. Allora non voglio togliere da me il gioco del cielo. Oh. Però lo ha espresso in questa maniera. Il senso di quello che sta dicendo è... non è un divieto, è un'agevolazione, diciamo così. Ma chi può riuscire cielo. Senza l'agevolazione, allora ben venga. Concludiamo finire. Qui. Se Dio vuole, la prossima volta approfondiamo grazie, il concetto degli operai grazie. Che devono grazie. Fare lo Shema in certa maniera grazie. Nella prossima lezione.